Speciale, la politica nel tunnel. La politica nel tunnel, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. I nostri titoli: Partito Democratico di nuovo al centro delle polemiche, nuovo scambio di accuse Renzi-Bersani ed ancora con l'incontro Berlusconi-Bersani è iniziata ufficialmente la corsa per il Quirinale. Grillo intanto attacca ed auspica, al Colle moralizzatori senza compromessi, il Movimento 5 Stelle insiste, il Parlamento deve lavorare, servono le commissioni. Partiamo allora dalla polemica delle ultime ore. Renzi sperava di far parte dei grandi elettori della Toscana che voteranno in Parlamento il nuovo Presidente della Repubblica, così però non sarà. Sentiamo allora le accuse del sindaco di Firenze. Per tanti motivi avrei volentieri rappresentato la Regione Toscana. Il gruppo regionale del Partito Democratico ha scelto in un altro modo e io rispetto le decisioni del gruppo del Partito Democratico. Naturalmente qualcuno mi aveva detto vai avanti tranquillo, non c'è problema, ti votiamo, e poi da Roma è arrivata qualche telefonata per fare il contrario, e sono cose che succedono, ma io non mi abituerò mai alla doppiezza. Io sono uno che parla una lingua sola, talvolta in modo anche un po' troppo franco e brutale, però quello che dico lo dico in faccia. Invece altri ti dicono una cosa in faccia e poi te ne fanno un'altra dietro alle spalle. Non lo cita mai, ma il destinatario delle accuse di Renzi sembra essere Bersani. Quest'ultimo allora replica e dice: non ho deciso, suggerito o anche solo pensato alcunché a proposito di una scelta che riguarda unicamente il Consiglio regionale della Toscana. Ma l'intervento di Renzi non si limita alla vicenda dei grandi elettori, ma riguarda anche la situazione politica più in generale. Per Renzi la via delle urne sarebbe obbligata. Sentiamo allora quest'altro passaggio. Io ho sempre detto una cosa molto semplice, personalmente sono uno di quelli che spera che si vada il prima possibile alle elezioni, che si vada alle elezioni, perché il risultato delle politiche è un risultato che non ha dato una maggioranza, quindi di conseguenza io personalmente spero che si vada alle elezioni. Se però Bersani e Berlusconi, più correttamente, riterranno che sia più opportuno fare una qualche forma di accordo nell'interesse del paese, naturalmente sono certo che sarà nell'interesse del paese e non dei destini personali, mi auguro che facciano il più veloce possibile, perché ogni giorno che si perde è un tempo perso per l'Italia. E Renzi faceva riferimento nelle sue parole ad una possibile intesa Berlusconi-Bersani. I due si sono incontrati ieri, non si è parlato però di governo ma del Quirinale. Vi sarebbero stati passi in avanti sul metodo, ossia individuare una rosa di nomi graditi ad entrambi gli schieramenti. Passi in avanti dunque sul metodo, tema di cui ci parla la deputata del PDL Beatrice Lorenzin. Innanzitutto nel dialogo, perché il fatto che si siano incontrati mi sembra una posizione di equilibrio e di dialogo positiva, considerando poi quello che è avvenuto nel mondo del Partito Democratico nelle ultime settimane, dagli attacchi di tutta una parte del PD, compreso Zanda, che ci davano degli impresentabili e che addirittura ventilavano l'ineleggibilità di Berlusconi. Quindi da una parte così estrema che sempre non vuole andare oltre l'individuazione del nemico da tutti i costi da battere, ad un incontro Bersani-Berlusconi di legittimazione reciproca, penso che sia un passo avanti non tanto per i nostri partiti quanto per l'Italia. Detto questo, il metodo è un dato importante, cioè che ci sia un aspetto di condivisibilità. Sul governo rimangono però tutte le nostre perplessità, cioè noi diciamo che l'Italia deve essere un paese, una nazione normale, dove quando le parti sono in equilibrio e il paese è di fatto spaccato in tre, si fa quello che accade negli altri luoghi, cioè si fa un governo di coalizione, un governo politico che può avere anche una durata breve, dei punti particolarmente condivisi, ma dove c'è una responsabilità di tutti, c'è una responsabilità chiara e precisa, altrimenti sì, ci sarebbe l'inciucio. Questo è una cosa che noi abbiamo sempre detto e continuiamo a ribadire con chiarezza, altrimenti è meglio andare al voto, visto le scelte dirimenti che vanno prese dal punto di vista economico e sociale in Italia. La forma di protesta di ieri del Movimento 5 Stelle rientra in quello che legittimamente qualsiasi forza politica può e deve fare per farsi notare in Parlamento, o trova che sia stata un'anomalia? No, anomalia no, più che altro è stata inutile, nel senso che noi abbiamo, tutti quanti i partiti dalla storia della Repubblica hanno utilizzato metodi ostruzionistici, e si fanno le nottate, giornate intere. Io ricordo i giorni in commissione bilancio in cui siamo stati la scorsa legislatura, anche 4 giorni e notte consecutive, al comune di Roma, da dove io provengo, sono epiche le nottate, le settimane in aula, quindi si figuri, questo fa parte della normale dialettica democratica in cui si utilizzano tutti gli strumenti. La trovo inutile nella materia, cioè questa invocazione all'assemblearismo del Movimento 5 Stelle li fa sempre più assomigliare a un collettivo studentesco piuttosto che a un gruppo parlamentare nella fase più difficile della democrazia italiana. E la Lorenzin del PDL, al termine dell'intervista, fa riferimento alla protesta di ieri in Parlamento del Movimento 5 Stelle. Il Movimento insiste perché le commissioni si formino ed inizino a lavorare. Quanto al futuro Presidente della Repubblica, la capogruppo alla Camera Roberta Lombardi interviene così sui contatti tra PD e PDL. Sentiamo. Sono 20 anni che il PD e il PDL in varie forme, in vari modi si incontra e converge a fare i loro interessi, quindi non mi meraviglia il fatto che ieri si siano visti in maniera ufficiale. È quello che purtroppo succede da 20 anni, noi adesso ci siamo per far sì che questa volta l'interesse non sia l'interesse di parte ma sia l'interesse dei cittadini, pur nel eventuale governo di grande intese, a prevalere insomma l'interesse dei cittadini e l'interesse dei partiti. Mi ha chiamato stamattina Vito Crimi dicendo che ha avuto la telefonata di Zanda, il capogruppo al Senato, proprio relativamente al contro per il candidato presidente, e come stanno avendolo con tutte le forze politiche, e noi gli abbiamo detto quello che vi ho spiegato prima, cioè che in questa fase è assolutamente prematuro perché non abbiamo idea di che nomi la rete tiri fuori, e magari in un secondo momento con una rosa di nomi, però noi comunque voteremo il candidato, anche se nella rosa dei 10 a loro dovesse piacere un nome, ma non è il nome che esce dalla seconda votazione, noi non lo voteremo. Beh, ognuno di noi ha nel cuore una persona, quindi io vedo le bacheche degli attivisti che dicono a me piacerebbe Tizio, a me piacerebbe Caio. Grazie Presidente, le assicuro che non la deluderemo, il Movimento 5 Stelle porterà all'eccesso la moralità in politica. Queste intanto le parole di Beppe Grillo, che si rivolge così al Presidente della Repubblica Napolitano, che nei giorni scorsi aveva criticato i troppi moralisti fanatici. Tornando al tema delle commissioni parlamentari, almeno alla Camera qualcosa si sta muovendo, la conferma arriva da Davide Zoggia del PD. Noi oggi, il capogruppo oggi fornirà i nomi, come deciso ieri all'Assemblea del gruppo parlamentare alla Presidente della Camera, e quindi noi abbiamo adempiuto sostanzialmente al compito che c'era stato assegnato. Dopodiché, per quanto riguarda il funzionamento, tra Presidente di Camera e Senato sostanzialmente concorderanno. La valutazione che si sta facendo è che ovviamente le commissioni, per poter funzionare bene, per poter produrre, devono anche vedere la nascita di un governo, insomma. Ecco, rispetto a questa forma di protesta andata in scena ieri da parte del Movimento 5 Stelle, lei che idea si è fatto? Che bisogna stare dentro la Costituzione. La Costituzione dice che noi siamo una democrazia parlamentare, che si fanno le elezioni, si vince, si perde. In questo caso la situazione è che il centro-sinistra, il Partito Democratico, ha vinto la Camera, mentre per effetto della legge elettorale non c'è maggioranza al Senato. Così dunque Zoggia del Partito Democratico. Ricordo che domani Bersani vedrà Maroni e venerdì finirà invece il lavoro dei cosiddetti saggi. La politica nel tunnel finisce qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.